Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Il nome completo è Uni EN ISO 50001, sistemi di gestione dell'energia, requisiti e linee guida per l'uso. Ma noi la chiameremo semplicemente 50001, è la nuova certificazione ISO di riferimento in campo energetico ed è stata varata solo pochi mesi fa. Allora stasera cerchiamo di capire un po' meglio che cosa c'è dietro questa sigla, che con tutta probabilità è destinata a entrare a far parte del vocabolario, come altri, diciamo così, suoi illustri predecessori. Penso alla 9001 per la qualità, alla ISO 14001 per l'ambiente. Ne parliamo della 50001 con Antonio Panvini, che è direttore tecnico del CT, il Comitato Termotecnico Italiano, che ha anche coordinato proprio il gruppo di lavoro europeo che ha steso la nuova norma. Buonasera Panvini. Buonasera a voi. Allora, intanto diciamo una cosa, che questa 50001 non spunta proprio dal nulla, ma ha un antenato abbastanza recente, che è la norma EN 16001, che un po' di aziende hanno già implementato. Sì, una norma nata proprio su volontà, diciamolo, dell'Italia, che è stata pubblicata nel 2009 e è servita come precursore per la stesura della 50001. Allora, qual è l'elemento di novità che introduce la 50001 rispetto al passato? Di fatto la 50001 si affianca come complemento energetico alla ISO 9001, alla ISO 14001 sui sistemi di gestione della qualità e sui sistemi di gestione ambientale. La necessità di sviluppare una norma specifica sull'energia deriva dal fatto che ad oggi non c'era ancora uno strumento a disposizione per le aziende, per le imprese, proprio per la gestione del propri consumi energetici. Ecco, perché non è che la 50001, come dire, definisca delle prestazioni. No, la 50001 definisce come gestire tutta quella serie di strutture organizzative, tecniche e anche comportamentali all'interno di un'organizzazione al fine di migliorare l'efficienza energetica della propria azienda e quindi ridurre in maniera sensibile, questa è una nota da fare, il consumo energetico. In pratica quello che viene offerto è una sorta di metodo che porta a un costante miglioramento delle performance, è un modo di lavorare in un certo senso. Assolutamente sì, un modo di lavorare che obbliga ad individuare una politica energetica, a dotarsi di politica energetica che comprende e che definisce degli obiettivi che devono assolutamente essere raggiunti, obiettivi che si dà la singola organizzazione, sì. Quindi nessuno impone dall'esterno, e obiettivi che devono comunque tener conto del quadro di mercato, legislativo, economico in cui l'organizzazione opera. Di conseguenza questa metodologia diventa l'elemento fondamentale per poter andare a scoprire quei punti spesso oscuri della propria gestione, della gestione interna dell'azienda, gestione dell'energia ovviamente, che spesso vengono trascurati. Si parla dei cosiddetti usi significativi, intesi non solo come quei settori dell'azienda che consumano tanta energia, ma anche quelli su cui è potenzialmente possibile intervenire in maniera significativa per ottenere una riduzione dei consumi. Senta, uno dei problemi che viene più spesso segnalato, diciamo così, dagli addetti ai lavori è il fatto che poi spesso dentro nelle aziende, in Italia tipicamente l'energy manager, comunque insomma chi in qualche modo ha in mano la gestione energetica, nella catena gerarchica poi non conta niente e quindi il risultato è che non si riesce a fare nulla. C'è una risposta a questa problematica nella 50001? Sì, è stato uno dei punti ovviamente fondamentali su cui si è lavorato nella stesura della norma, perché di fatto viene individuata la necessità di definire all'interno dell'organizzazione un team di esperti che abbia le conoscenze ma anche l'autorità e le risorse per entrare in qualunque reparto dell'organizzazione, dell'azienda e influenzare sempre in maniera sostenibile le attività dell'azienda stessa, compreso l'acquisto di beni e servizi di materie prime o quant'altro. Quindi aspetto fondamentale è l'investitura di questo team con risorse, responsabilità e autorità. C'è proprio il top management coinvolto nella procedura in qualche modo? Il top management è coinvolto anche ad un secondo livello non meno importante, che è quello di definire in maniera chiara quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere, altrimenti non ci sarebbe un sistema di miglioramento, e verificare che il miglioramento sia continuo nel tempo. Questo è un altro aspetto fondamentale della norma. Chi è che deve pensare a certificarsi 50.001? A chi questa norma, insomma, ha da offrire qualcosa di concreto? La norma offre qualcosa di concreto, quindi una riduzione dei costi in bolletta a chiunque abbia un consumo energetico che copre una parte rilevante del proprio budget. Quindi di fatto a tutte le organizzazioni. Ovviamente chi è partito per primo sono quelle organizzazioni che hanno consumi rilevanti di energia, ma non necessariamente queste devono essere le uniche ad adottare questo forse, tipo di... Ecco, forse c'è un fattore dimensionale, una piccolissima impresa forse fa fatica ad attrezzarsi per seguire queste procedure, è possibile? Nello scrivere la norma si è stati attenti anche a dire che il sistema di gestione deve essere commisurato alle dimensioni dell'azienda. Ci sono aziende in Italia, pochi secondi per rispondere, già certificate 50.001, perché la norma è stata varata a giugno, se non sbaglio, no? Insomma, comunque da pochissimo. Sono sicuramente 2-3, probabilmente qualcuna di più, perché il mercato si sta muovendo molto velocemente. Grazie Antonio Panvini. Grazie a voi. È tutto, a domani.